Bentrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici, prima di tutto. Questa settimana le cose nuove che ho letto non mi hanno entusiasmato e allora piuttosto di parlare male di cose su cui poi la gente lavora, insomma non ha senso neanche parlare troppo male delle cose, vi proporrei un recupero di un libro che è uscito già da qualche mese, che non è una vera novità ma che trovate ancora in libreria. E che è un libro, insomma, che mi ha colpito particolarmente quando l'ho letto, quindi ve lo propongo, ve lo segnalo. Per questo si tratta dell'opera prima, del primo romanzo di Daniele Brolli. Daniele Brolli è un nome che forse molti di voi già conoscono per le tante cose che ha fatto negli anni precedenti, prima di scrivere questo romanzo, che continua a fare, insomma, tuttora. Brolli è il direttore dell'Isaac Asimov Science Fiction Magazine, edizione italiana, dirige Alphaville, insieme con me fra l'altro, quindi insomma abbiamo anche dei rapporti da questo punto di vista, ma fa un sacco di altre cose, fumettista, sceneggiatore, eccetera eccetera. Però quello di cui volevo parlarvi oggi appunto è il suo primo romanzo, uscito da Baldini e Castoldi verso la fine dell'anno scorso, però vi ripeto, si trova ancora in giro. Si chiama Anima Nera, Anima Nera tutto attaccato. È una prova narrativa, insomma, che forse alcuni di voi troveranno sconvolgente, altri, quelli che sono più abituati alle modalità di scrittura dello splatter, meno, insomma, ma c'ha alcuni tratti, devo dire, diciamo, che colpiscono e che colpiscono la bocca dello stomaco, insomma, quanto e forse più di certe cose, per esempio, non so, di American Psycho, di Bret Easton Ellis, che alcuni di voi ricorderanno, ma è una cosa tutta quanto diversa e non vorrei che il riferimento a Ellis vi portasse fuori strada. Farei una cosa, vi leggerei brevissimamente le prime righe del libro per farvi capire una cosa che poi vi dirò, poi altre cose. Dalle colline la città appare immobile e distante. Di notte l'immagine del suo corpo nero fluttua di luci come un albero di Natale addobbato. È un lungo sigaro grigio coricato su una terra grassa che esala umidità. Quando soffi d'aria levantina trasportano altrove le foschie, il mare, disteso ad est, risuona impastato di schiume. Le macchie scure dei caseggiati languono rintanate fra l'Adriatico e accenni pre-appenninici pettinati di vigneti e coltivazioni, una decolorata versione paesaggistica tardo-gotica. Insomma, voi dite, una cosa che comincia così sarà troppo letteraria, sarà troppo... No. Daniele Brolli è capace di scrivere, conosce, sa come si torcono le frasi, le parole, eccetera, per dare gli effetti anche più strani, ma non c'è nulla di, diciamo, letterario. Questo è un romanzo... Potremmo un po' definirlo forse un nero urbano, un romanzo di desolazione e di esistenze in parte fuori dell'ordinario e in parte terribilmente ordinarie. Le due coppie maschili entrambe che si contendono il campo in questo libro sono quelle di Occhi al Neon e L'Uomo Comò, che sono due sorta di serial killer che fanno dei video pornografici dal vivo pieni di violenza e di morte, perché ammazzano le persone realmente per girare questi video, da un lato, che hanno una storia complicata, bella, insomma scoprirete chi di voi avrà voglia di leggere il libro, da un lato, e queste sono per così dire le esistenze non ordinarie, cioè le esistenze che hanno già passato il confine, insomma, del delitto, eccetera. E invece dall'altro la coppia Loris-Arturo. Loris è una guardia giurata, voi avete già capito dalle prime righe che vi ho letto dove è ambientato il libro, insomma, nelle terre, diciamo, natali di Brolli, cioè la città di Rimini non è mai nominata, ma in effetti è quella in cui si svolge tutto il libro, insomma, no? E quindi c'è questo Loris, nome tipicamente romagnolo, che è un ex pugile, che fa ancora il pugile dilettante, che però lavora come guardia giurata, e il suo amico e fidanzato della sorella, Arturo, che invece è una specie di balordo, che però si traveste più o meno da persona normale, insomma. Bene, intorno a queste due coppie che inizialmente, diciamo, Occhi al Neon e l'uomo Comò da un lato, Loris e Arturo dall'altro, che non si conoscono, perché sono altri personaggi, eccetera, a un certo punto le loro storie vanno ad intersecarsi in una sorta di intreccio molto, non tanto complicato, insomma, però a un certo punto. E tutto questo a che cosa serve a come dire, Brolli? Serve per farci capire in qualche modo una sorta di parabola anche sulla storia della civiltà, non vi sembri eccessiva questa cosa. A un certo punto lui fa una specie di ricostruzione a modo suo delle trasformazioni che hanno subito le, insomma, città, passando dalla fase agricola a quella industriale e poi a quella post-industriale, o come vogliamo chiamarla, insomma, quella contemporanea, con una sorta di malattia dell'immaginario che purtroppo per noi diventa a volte una malattia della realtà. Ci sono molti pezzi molto belli che mi hanno colpito particolarmente quando alla fine questo Occhi al Neon, in circostanze che non vi posso svelare perché c'è un noir, c'è un intreccio, in qualche modo morirà, si scopre che tutto il suo corpo è istoriato, inciso di una serie di frasi, di racconti, di parole lunghissima che il suo amico, l'uomo appunto Comò, decifra, eccetera, eccetera. Il finale è pirotecnico, è quindi il finale di un vero noir, forse non soddisferà tutti i lettori, insomma, ma io spero che soddisfi i lettori questa atmosfera sospesa, rarefatta, eppure così corposa, così cattiva e crudele a volte anche nelle poche, non tante in fondo, scene violente che ci sono, e quando sono violente davvero. Finisco segnalandovi la più bella invenzione del libro, secondo me, cioè questo fantoccino, questo giocattolino, questo G.I. Joe che tormenta o comunque abita i sogni di Loris, il quale è uno che non riesce a, diciamo, capire quello che deve fare nella vita, e questo G.I. Joe è questo appunto personaggio che lui vive in sogno e che gli appare costantemente nel corso del libro tentando di dargli consigli, di commentare la sua vita, di fargli capire quello che ha sbagliato e quello che ha fatto, diciamo, di buono, di giusto, molto poco. Ci sono all'inizio dei, insomma, capitoli una serie di epigrafi, una molto, molto bella, insomma, di una, insomma, canzone che io confesso non conoscevo, dei Beatles, Happiness is a Warm Gun, la felicità è una pistola calda, la felicità è una pistola calda, mamma, quando io ti tengo nelle mie braccia e sento le mie dita sul tuo grilletto, so che nessuno può farmi del male, perché la felicità è una pistola calda. Sì, è proprio così. A risentirci la prossima settimana. Novità nel campo editoriale. Bentrovate a tutte, cari ascoltatrici e tutti cari ascoltatori. La Bompiani, che come tutti sapete tenta invano da anni di contendere anche sul piano dei tascabili il primato agli immarcescibili Oscar Mondadori, e quindi ha comunque una delle più grandi collane di tascabili dell'editoria italiana, ha recentissimamente, da una settimana o due al massimo, inaugurato all'interno di questi tascabili una nuova serie. I tascabili Bompiani si chiamano I Delfini, questa serie si chiama invece Gli Squali, e c'è uno squaletto che campeggia come piccolo logo della, diciamo, serie. Questa serie, Gli Squali appunto, è una serie che presenterà direttamente in edizione tascabile parecchie novità, anche alcune ristampe, della letteratura di genere più o meno classica, diciamo meno classica che non più, perché questa collana è diretta da Daniele Brolli, di cui vi ho già parlato la settimana scorsa, ma è una pura coincidenza, questo deriva dal casino di cose che sta facendo Daniele in questi anni e quindi lo si trova un po' come il prezzemolo in tante cose, e privilegerà sul piano della fantascienza, del nero, dell'horror, eccetera, le tendenze più innovative, cioè quelle che negli anni 80 hanno cambiato negli Stati Uniti e quindi nel mondo il panorama della letteratura di genere, cioè il cyberpunk per quanto riguarda la fantascienza e lo splatterpunk o le cose analoghe per quanto riguarda l'horror. Avremo occasione di parlare di questi libri mano a mano che usciranno. Vorrei parlarvi adesso del numero 1, del primo uscito di questi libri, che è non una novità, ma per molti penso che lo insomma sarà. Si tratta del libro di James G. Ballard, La mostra delle atrocità. Questo libro era già uscito in edizione Rizzoli nel 91, nel 91, sì, esatto. Però insomma no, direi che non aveva avuto un grande riscontro di pubblico, anche per la pessima, devo dire, strategia editoriale di Rizzoli. Speriamo che in questa nuova edizione economica abbia più fortuna. Il libro consta di 272 pagine e costa 15.000 lire, quindi direi è una cosa sufficientemente abbordabile. Il testo di Ballard è vecchiotto, certamente, però è uno dei testi fondamentali, quello in cui Ballard comincia ad abbandonare i modi classici della fantascienza. Il libro è stato edito nel 69-70, nel 70 sì, in Inghilterra, nello stesso anno negli USA, però ha avuto una edizione sfortunatissima, ritirata dal commercio, eccetera, anche perché si era in quegli anni, negli anni pieni della guerra del Vietnam, e uno dei capitoletti di questo libro era intitolato Amore e Napalm, gli USA formato esportazione, quindi capirete come potesse essere gradito all'establishment culturale degli Stati Uniti in quegli anni qualche cosa che metteva in ridicolo in qualche modo il loro impegno. Si tratta di una serie di testi, di una serie di cose che Ballard chiamava condensed novels, cioè romanzi condensati. È un libro per sono certi versi profetico, perché anticipa parecchie delle tendenze che si sarebbero affermate 15-20 anni più tardi. Insomma, in modo particolare questo è un libro considerato in qualche modo una Bibbia dagli scrittori cyberpunk, perché mostra in qualche modo come il paesaggio dei media, cioè il nostro mondo contemporaneo dominato dalla rappresentazione mediatica, televisiva, eccetera, eccetera, alteri e cambi non soltanto il nostro immaginario, ma, sostiene addirittura Ballard, il nostro sistema nervoso, quasi in modo fisiologico. Insomma, a un certo punto lui usa questa frase che a me è rimasta impressa, che dico spessissimo: icone neuroniche sulle autostrade spinali. Cioè il nostro sistema nervoso sarebbe una sorta di sistema di autostrade in cui circolano immagini, idee, eccetera, eccetera, che in qualche modo ci abitano, che a volte sono anche indipendenti dalla nostra volontà. La storia è presto detta, cioè per i primi nove capitoli si tratta di un personaggio che non capiamo bene se sia un medico o se sia un ammalato mentale, o se sia che ha vari nomi, si chiama Travis, Tallis, Talbert, eccetera, eccetera, il quale, si dice ad un certo punto del libro, tenta di ripetere i grandi eventi luttuosi dei media di quegli anni, cioè degli anni appunto 60, in modo che abbiano senso. Quindi cerca di rifare la morte di Marilyn Monroe, di rifare di rifare l'incidente della navicella Apollo, di rifare l'assassinio di Kennedy, diciamo ripetere nella vita privata e quotidiana una serie di eventi dei media. È un romanzo che deve molto al surrealismo, che deve molto a tante ascendenze culturali, che però Ballard è in grado, secondo me, di fondere e di padroneggiare molto bene con questa sua prosa che sembra molto fredda, distaccata, eccetera, eccetera. In realtà proprio per questo però è tanto più sconvolgente, secondo me, almeno ai miei occhi e agli occhi di quelli come molte persone che insomma lo lessero in quegli anni, quando ancora non c'era in italiano, quindi in inglese, e ne rimasero affascinatissimi. Io lo lessi quasi 10 anni dopo che era uscita l'edizione, diciamo, inglese. Ci abbiamo messo tanto per farlo uscire, ovviamente, qua in Italia. Appunto, ripeto, la prima edizione ha avuto forse poco successo. Spero che questa ne abbia un po' di più, perché è un testo certamente non scorrevolissimo, insomma, non è una storiellina che scorre via veloce, è una cosa che richiede da parte del lettore un minimo di partecipazione, che secondo me viene comunque ampiamente ripagata, insomma, dalle sorprese, dalle continue sorprese che ad ogni pagina ci dà appunto Ballard, con la insomma visione di questo mondo abbastanza atroce, insomma, no? La mostra delle atrocità si chiama il libro. Però anche pieno di insomma ironia. Vi ricorderò soltanto, per esempio, che sulla scorta di Alfred Jarry, che parlò della crocifissione come una gara di corsa in salita. In questo, diciamo, libro abbiamo l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, considerato come una gara automobilistica in discesa, quindi tutta una parodia di quell'evento ovviamente luttuosissimo. Chi ha visto il film di Oliver Stone ci ritroverà molte cose, insomma, alcune delle cose, e più poi una serie di cose anche un po', insomma, terribili, tipo lifting, plastiche mammarie, rinoplastiche, eccetera eccetera, e una bellissima, che vi raccomando, storia segreta della terza guerra mondiale, secondo cui alla fine degli anni 90, insomma, in modo profetico, sarebbe scoppiata una terza guerra mondiale, di cui però nessuno nella umanità si sarebbe accorto, per una serie di motivi. Insomma, vi lascio quindi raccomandandovi, se insomma volete, di leggervi questo James Graham Ballard, La mostra delle atrocità, Bompiani, tascabili, lire 15.000, e ci risentiamo la prossima settimana. Forse qualcuno di voi si ricorda il personaggio femminile di Molly in Neuromancer, Neuromante, con le sue lame retrattili che vengono fuori da sotto le unghie. E pensavate che questo fosse il massimo della perversione tecnologica e della contaminazione fra donna e macchina dal punto di vista bellico? Invece dovete ricredervi, perché la protagonista dei Guerrieri dell'Interfaccia, romanzo di Walter John Williams, appena uscito per le edizioni Phoenix, che ha un nome biblico, si chiama Sara, ne ha una ancora peggio. Ha un amico che si chiama Donnola e che sta acquattato nella sua gola, sotto la lingua, in qualche posto, non chiedetemi dove, e quando è il caso, nella lotta, nel corpo a corpo, Sara, con un comando mentale, srotola questa specie di cobra cibernetico, di cyber cobra, e lo sbatte addosso all'avversario, con conseguenze, potete immaginare quali. Questo è per darvi un'idea del livello al quale siamo con questo romanzo, che è romanzo di un autore abbastanza interessante, diciamo così, della seconda ondata cyberpunk, quindi non del nucleo originario, che però si è conquistato rapidamente un certo spazio, è prolificissimo, scrive un sacco di roba, ha più o meno l'età di Sterling o poco più, adesso non vi so dire precisamente quando è nato, è del 53, quindi fatevi conto, è più o meno, no, forse all'età di Gibson, più che non di... sì, no. E questo è il suo primo romanzo che esce in Italia. La rivista di Isaac Asimov ha cominciato a pubblicare qualche suo racconto, forse qualche suo racconto è comparso anche da altre parti, non lo so. Direi che è un romanzo che regge bene, c'ha un bellissimo ritmo. Nella quarta di copertina si fa il nome di Zelazny, Roger Zelazny, come suo ispiratore, si parla di prosa barocca. Entro certi limiti sì, potrebbe essere, ma naturalmente Zelazny aveva ed ha ancora un modo di scrivere, direi, molto più letterario per certi versi. Insomma, questo è un romanzo d'azione durissimo. Il protagonista, quella femminile, ve l'ho detta, è una dirt girl, si chiamano, insomma, le ragazze che fanno i lavori un po' sporchi da vari punti di vista, insomma, possono essere sia guardie del corpo che insomma prostitute di un certo livello, indifferentemente. Il personaggio invece, il protagonista maschile, si chiama Cowboy ed è uno degli ultimi che hanno volato sulla Terra, perché che cosa è, diciamo, successo? Qui, insomma, in questi romanzi cyberpunk è sempre importante lo scenario fantapolitico, geopolitico che gli autori costruiscono. In questo caso lo scenario è questo, manco a farlo apposta, il potere politico è praticamente scomparso, chi comanda davvero sono le multinazionali, le quali però si sono sollevate dalla, diciamo, Terra, e stanno adesso in orbita, infatti li chiamano gli orbitali. La guerra che ha deciso praticamente il futuro della Terra in questo 21° secolo si chiama guerra delle meteoriti, perché le multinazionali orbitali come l'hanno vinta? Non con bombe nucleari, ma semplicemente tirando dall'atmosfera delle specie di cartonazzi di meteoriti del diametro di svariate decine di chilometri l'una, praticamente distruggendo la gran parte delle città della Terra. Sulla Terra si vive non troppo bene, insomma, adesso, però ci sono traffici clandestini, il solito scenario, insomma, no? Ebbene, il libro è la storia del rapporto un po' contrastato tra questo cowboy, che è uno degli ultimi piloti di aerei, perché gli aerei non volano più dopo che gli orbitali minacciano le cose della Terra, e questa Sara, sullo sfondo di una guerra, appunto, tra multinazionali, in modo particolare questa terribile Temple IG, che è una multinazionale delle biotecnologie, eccetera, insomma, e che coinvolge il mondo dei corrieri, perché appunto dopo che non volano più, adesso questi qua, cowboy e altri, girano su degli enormi panzer e che guidano ovviamente cablati, quindi tutti sono pieni di spinotti dietro le orecchie, dietro le cose, si connettono direttamente tramite fili appunto con i sistemi di guida e guidano in questo modo. Insomma, sono 284 pagine filate, mozzafiato veramente, perché il ritmo è veramente molto bello, il prezzo non è neanche tanto, perché sono 23.000 lire per queste pagine, l'editore, ve l'ho detto, Phoenix, il titolo ve lo ridico, Guerrieri dell'Interfaccia, non è un granché il titolo originale inglese era molto meglio, Hardwired, ma vai a tradurlo, Wired Hard, cioè quindi allude al collegamento duro, appunto a questa trasformazione dei corpi che diventano praticamente dei terminali di computer. L'autore, ve l'ho detto, è Walter John Williams, un autore di cui spero sentiremo ancora parlare. A risentirci sabato prossimo. Well,